Due minuti di ritardo. A Bari su, c'hai rotto il cazzo, Barisone è diventato vicepresidente, no? Qui c'è inutile che lei fa il saputello. Lei rimarrà anche fra 10 anni a dire tonnellate di male parole con la sua trasmissione, con il pezzo di merda che c'ha a fianco. La zanzara. Tutto il resto è no. Gioia. Naturalmente. Che se ve la chiudessero sta trasmissione, poi sarebbe anche un segno di civiltà, un segnale che sta civiltà è ancora sana, che c'è ancora un minimo di buonsenso in sta nazione. Però poi io senza di voi, ma davvero come cazzo farei? Vabbè, ma io lo sapevo che David aveva le occhiaie perché da giovane si era ammazzato di canne. Però bellissimo, quando ieri l'ascoltatore ha fatto un tiro in diretta, lui, che botta vecchio mio, proprio interessato. Dai, nuova petizione, David, fai un tiro di canna alla zanzara. Un altro anno gli serviva la Germania per vincere la guerra, un altro anno. Arenzo, quando chiedi i negri di che colore c'hanno il sangue, alludendo al fatto che ce l'hanno rosso, beh, sappi che ce l'hanno rosso anche i topi, ce l'hanno rosso anche i gatti, anche i cani, anche gli orsi. E quindi che cosa cazzo vorresti dire? Che io posso sposarmi con un gatto, con un cane, con un orso, come con una negra, è la stessa cosa? Farenzo, vai a fanculo! Secondo voi, perché sono d'accordo con tutto quello che dice Parenzo, assolutamente, e invece sono in disaccordo con tutto quello che dice Cruciani, ma tra i due mi farei Cruciani? Parenzo, sei vergognoso come hai trattato quella signora che tu chiamavi nonnina ieri. Devi solamente vergognarti, tu e quello negro, che quel negro che si è presentato come Mister Friuli, là, come si chiama Iddo. Vergognati! Maleducato, insulti gli anziani. Ma scusate, io ho un caro amico che è un giovane rampollo di una di quelle aziende che sono un po' l'eccellenza italiana nel mondo, di quelle che piacciono a Parenzo. E lui è sempre stato con bellissime ragazze, modelle, presentatrici minori della televisione, che tra l'altro non sono gratis neanche loro. E lui è sempre andato a puttane, sempre in giro per il mondo, da solo, in gruppo. E quando gli ho chiesto perché era finita la sua ultima relazione, mi ha risposto: c'ho troppo voglia di figa. Per colpa vostra, ogni volta che sento qualcuno discutere mi metto a pensare: c'è tensione, tradimento, di odio. Parenzo, ma pure sulla denominazione della tappa del Giro d'Italia dovete cagare il cazzo. Mandate a fanculo. Allora ragazzi, con 2 minuti e mezzo di ritardo mi sono veramente rotto i coglioni per questa storia. Mi sono rotto i coglioni di lavorare e perdere 2 minuti e mezzo per ritardi assurdi. Mi sono rotto i coglioni. Nonostante questo andiamo avanti. Mussolini scatenata questa mattina. Intanto Parenzo si sta collegando. Mussolini contro Agorà. Mi avete chiamato per parlare d'altro e invece si parla di fascismo, di blitz. Vabbè, a Mussolini, ma che ti aspettavi? Ti chiamano là, c'è la storia degli skinhead che fanno l'irruzione, la famosa violenza fascista, che poi non è successo cazzo. E che ti chiedono? È chiaro che ti chiedono di questo, no? Allora, Mussolini, ieri Repubblica titolava "Torna il fascismo, Repubblica Online". Ah, adesso ho capito perché mi avete chiamato. Cioè, voi avete fatto il vero blitz violento. Noi chi? Mi perdoni, Mussolini. No, mi perdoni lei, scusi Bortone. Lei, io pensavo che lei mi avesse chiamato e non risponderò alle sue domande perché non mi tiro indietro. Pensavo che voi mi aveste chiamato per altro. Dato che voi parlate di blitz, lei ha chiamato il mio assistente per dire che si parlerà di immigrazione. Non è vero, comunque parlerò anche di questo. Allora, Mussolini, mi dica, che io mi vuole chiedere, cara? Vabbè. Qual è la viola? Qual è l'atto di viola? Che lo vede con una mazza in mano? Che fa questo ragazzo? Sta leggendo un comunicato. Voi, allora, invece voi avete letto i comunicati di questa associazione, come sono deliranti, come dicono di voler cambiare i trattati. Cioè, voi l'avete capito di che si tratta? Persone che si occupano dei migranti e non dei cittadini italiani? Cioè, praticamente la Mussolini se la prende con l'associazione pro migranti e non con gli skinhead che hanno fatto l'irruzione. Ma ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Alcuni dicono certe cose, quelli ne dicono altre. Se volete sciogliere, poi tra l'altro arriva uno, Fratoianni, il solito Fratoianni della sinistra italiana, uno che occupa diverse come dire, poltrone, soprattutto nei talk show. I voti, bah, bisogna vedere. Il signor Fratoianni che dice che bisogna sciogliere le organizzazioni come gli skinhead. Insomma, io non ho capito una cosa: se queste qua andavano sciolte, se una organizzazione, e probabilmente va sciolta perché dicono che il nazismo, il fascismo, per carità, probabilmente va sciolto, non lo so, non mi interessa, roba del Ministero degli Interni, ma se ne sono accorti adesso? Cioè, non è che uno può essere sciolto semplicemente perché va dentro un posto, legge un proclama e se ne va. Ma di che parliamo, ragazzi? Adesso si svegliano questi qua. Se devono sciogliere un'organizzazione, la sciolgano prima, no? Cioè, la sciolgano per le cose che dicono, non perché fanno l'irruzione dentro un'associazione. Sono patetici. Patetici. Di fronte a questo io credo che è arrivato il momento di cominciare ad intervenire. Io penso per esempio che molte di queste organizzazioni vadano sciolte, che su questo serva un intervento diretto. Ancora Mussolini, vai! Ma chi deliranti? L'associazione Como, l'associazione dei volontari? Sì, certo. Vabbè, certo. Allora restiamo intatto. Un comunicato. Mussolini, anche Mussolini. Aspetti. Allora, non cominciamo tutti a intervenire. Ecco, così c'è una io le ho dato pane per i suoi denti. Mi mamma dica, io mia, non ho trovato niente di violento in quello che vergogna. È successo ieri. Guardi, vergognatevi. Lo rivediamo e poi dopo. Vergognatevi voi che dite cose non vere e fate i blitz violenti. È talmente imbarazzante e surreale quello che dice l'onorevole Mussolini che io credo che non meriti nemmeno un commento. Mettetemi in galera per la legge Chiano. Faccio una domanda all'onorevole Mussolini. Fate entrare i carabinieri con le manette perché dico quello che penso. Mi scusi, onorevole, no. Allora ragazzi, la potete pensare come volete, ma il ragionamento che fa l'onorevole Mussolini è abbastanza chiaro, abbastanza evidente. E dice, al di là delle questioni sue con Rai 3, chi se ne frega perché è stata invitata o non è stata invitata, la gente se ne fotte. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, volete mettere fuori legge quell'associazione che fa benissimo, ma mettetela fuori legge per delle cose concrete, delle cose reali. Quelli esistono lì da anni, nessuno se li incula. Siete voi che avete dato così tanto spazio a questa roba qui, di questa piccola irruzione in un posto, che adesso li state esaltando. Li volete sciogliere per questo? No, sciogliere per quello che dicono. Da noi hanno detto che Hitler ha fatto delle cose buone, che Mussolini è un grande statista, che la società multirazziale non va bene, quello il leader non sposerebbe una nera. Questi sono gli argomenti, non il fatto che fanno un'irruzione in un posto, se ne vanno senza torcere i capelli a nessuno. Siete ridicoli. Ma ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro. E adesso andiamo a giustificare. Ma chi giustifica? Nazisti che sono entrati. Ma la Mussolini a fare ha ragione. La Mussolini ha ragione. Dovrebbe prendere le distanze da questi qui. Ma dopodiché che è tutta una farsa perché questi qui sono i pronipoti di Priebke. Ma la cosa più bella l'ha scritta Gramellini sul Corriere. Guarda, diceva: al momento di andarsene, un nazischino ha sibillato di non avere alcun rispetto detto perché lo aveva appena manifestato nei suoi confronti. E chi se ne frega? Ma lo ha detto, dice Gramellini, senza mai alzare lo sguardo. Se lo avesse fatto, avrebbe incrociato scaffali pieni di abiti dismessi, giocattoli, vettovaglie. E allora? E forse si sarebbe finalmente sentito ridicolo. Cioè, bellissime, in quattro parole, in quattro frasi. Ma a te ti piacciono queste cose retoriche? A te piacciono queste cose retoriche? A me non me ne fotte un cazzo. Rivedere il video di quei quattro stronzi che sono entrati, bravo, perché poi quattro le persone stronzi, vanno, bravo, chiamati, vanno chiamati. Ma per perché quel quelli che sono. Occupano? Voglio sentire gli editoriali sulla perché, gente che occupa l'università. Ma perché quando avviene un fatto tu dici sempre c'è anche l'altro? Ma perché? Ma sembra veramente, dice, ma è una cosa sciogliere, che si parla vuoi sciogliere di, perché hanno fatto l'irruzione? Vuoi ma sciogliere, dovevano qua? Essere, ma non dovrebbero andare in giro questi qui, ma non perché lo dico io, perché questi sono nazisti, siamo oltre. La democrazia a te ti fa schifo. Ma la democrazia non è il diritto di offendere, dire qualunque cosa. Ma la democrazia non è il diritto di sono entrati lì, se ne sono incursioni andati. E delle incursioni intimidazioni. Cosa? Siete pazzi. Sono intimidazioni. Siete pazzi. Ma che cos'è un'intimidazione? Ma se no, che cos'è? Ma non rompere i coglioni con cos'è questa stata quella roba? Ma quale intimidazione? E difendi pure i nazisti ormai. Difendi pure i nazisti. Questi. Difenderai anche quando davano fuoco ai Bangladesh. Guarda, ai ragazzi del Bangladesh. Guarda, veramente sei curioso. E dice, vabbè, ma tanto hanno dato fuoco. Era buio. Gli hanno dato fuoco. Era buio. Non hai capito un cazzo. E tu pensi che difendere la libertà di parola e difendere quelli che bruciano. Ma difendere la libertà di parola non vuol dire niente. Qui non c'è libertà di parola, c'è un'intimidazione. Quelli erano a casa loro. Quelli sono entrati in 10 vestiti da nazisti e non era cardinale. La zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Che cosa, mio nipote? Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. Sa cosa dice Oscar Giannino? Basta, basta e basta. Oh, basta! Allora, Parenzo difende l'operatore telefonico che è stato sbertucciato da Cruciani, quindi guai a chi lo tocca. Invece quelle della Lidl che sono state licenziate perché hanno sbertucciato due zingare, va bene, quelle bisogna licenziarle. Parenzo, ma spiegati meglio, facci capire come cazzo la pensi. Non leccare sempre il culo a tutte. Te li ricordi, Gremlis? Comunque ragazzi, la cosa incredibile è che ormai è tutto finito. Razzi a porta a porta. Antonio Mamma. Razzi a porta a porta. Sentiamo, no, ma presentato come un trade union, come un possibile mediatore della vicenda Corea del Nord Stati Uniti. Proprio così, seriamente, con Vespa che gli faceva le domande serie sui documenti che gli vengono dati dall'emissario dell'ambasciata nordcoreana. Senti, senti. Siamo stati i primi nel 2000 a stabilire relazioni diplomatiche con la Corea del Nord, primo paese europeo. Oggi un funzionario dell'ambasciata nordcoreana è andato al senatore Razzi e gli ha portato un documento nel quale si conferma ovviamente il lancio, ma si dice che è l'ultimo. Sì, mi ha garantito che è l'ultimo e che ormai loro sono non devono fare più esperimenti. Loro vogliono una federazione delle due Coree, vogliono vivere in pace, non vogliono attaccare nessuno. Io ho parlato sia con lui sia col presidente Kim Jong-un, che ogni anno che vado sempre la delegazione italiana numero uno riceve sempre, le altre delegazioni no. Ma che era porta a porta, Davide? Che cos'era? Non porta a porta, porta a porta mi sembra, no? Sì, siamo sicuri? Boh. Sì, boh. Poi porta a porta sicuramente, o la zanzara. Buonasera, buonasera al pubblico di Porta a Porta. Stasera il presidente emerito della Repubblica, il senatore Giorgio Napolitano, e poi avremo il senatore Antonio Razzi. Il titolo della nostra puntata è L'Italia, quale futuro tra speranza e paura? Ecco il futuro dell'Italia. Ma scusi Vespa, perché come lui fa sempre questi titoli? Ma come Razzi? Quale futuro? Ma come Razzi? Tra speranza e futuro, il valore. Sì, buonasera, abbiamo invitato Giuseppe Cruciani in qualche puntata. Ora abbiamo deciso di mettere il lasso da 90, che sarebbe il senatore Antonio Razzi. Dopo Cruciani, ormai a porta tutto è possibile, ma sempre con grande pacatezza, tranquillità, mai dibattiti troppo accesi. ragazzi, continuano gli italiani, continua la serie degli italiani che protestano perché subiscono furti questo. E non succede mai un cazzo, e se reagisci finisci sotto processo come minimo sotto processo. Questo qua è il figlio di un imprenditore, anzi una famiglia di imprenditori locali del Bergamasco, che sono costretti a dormire a turno dentro il loro magazzino per evitare i furti. Che pensa alla legittima difesa? Assolutamente valida. Cavalchi il cancello a casa mia, è giusto che io ti spari. L'Italia è un paese di merda, ho vergogna di essere italiano perché non sei tutelato, sei un coglione che paga e basta. Le leggi non ci sono, i governanti fanno quel cazzo che vogliono, paghi le tasse e basta. Manuel Parigi, mi sembra, Parigi addirittura, Manuel. Eccoci. Vai, dimmi. Eccoci, ciao, buonasera. Allora, innanzitutto complimenti alla trasmissione. Vai, dai, forza, dai, forza. Anche se ammiro molto questo, il problema è che siamo un po' stanchi di questi buonisti di sinistra. Io vivo a Parigi, no? E solo il 18% ha votato Macron. Comunque sia, tutti i parigini borghesi, no? Della... Dove vive lei a Parigi, caro? Dove vive? Io vivo nelle banlieue, quindi sono a stretto contatto con la popolazione. Nelle banlieue? Umberto dalla provincia d'Imperia, richiamiamo Manuel. Umberto, provincia d'Imperia, vai. Ciao. Dimmi. Razzi dopo Cruciani a porta per la serie Al peggio non vi è fine. Sì. Se intendete seguire la vicenda, sì, per onestà intellettuale, sì, di questo telefonista Eni, sì, che è stato minacciato praticamente, no, da lei, sì, dottor Cruciani, con quello, sai, sfogo da checca isterica, perché, sì, lo ha trattato pure con la stessa moneta con quale lei ha trattato lui, sì, quindi vediamo un pochettino se sì, Eni, che lei ha ricordato far parte di Confindustria, quindi già minacciando lo sanzionerà. Mi farebbe piacere che voi seguiste questa vicenda, grazie. Ma tu sei un cretino, lo sai, sì, Umberto. Richiama questo cretino un attimo, richiamami subito, prego, questo Umberto dalla provincia di Imperia, che ha utilizzato la checca isterica come naturalmente una cosa insultante. Giacomo Verona, vai. Pronto? Dimmi, Giacomo, dimmi. Sì, buonasera camerati. Sì. Volevo dire, come, non ho capito, scusa? Camerati, un come? Cazzo. Buonasera camerati. Camerati un cazzo. Ah, forse no, lo dice camerati in senso francese, perché in Francia no, camerati vuol dire compagno. Volevo stuzzicare David, con cui sono perfettamente d'accordo relativamente agli episodi di legittima difesa. Perché anche ieri sera, ascoltando il signore di Firenze che spacca la faccia a rumeno, non vuol dire un cazzo. Perché non vuol dire un cazzo? Non vuol dire niente, no. Quello spacca la faccia a un ladro dentro casa per proteggere la figlia, ma viene condannato e va bene. A te sta bene, ma se ti piace così, no, a me che cazzo me ne frega. Sta bene, perché io probabilmente mi difenderei in maniera ancora più violenta, però il problema sta a vedere che quando si dice anche ma è stato imputato il PM di qua di là un anno, bisogna andare a vedere cosa è successo nello specifico. È successo questo. L'articolo 570, e non fare l'avvocatuccio con me che non me ne frega nulla, capito? La legge è chiara, parla di chiunque, sì, quindi senti, genericamente questo, quindi qua, è d'ufficio questo il qua procedimento. Ma chi ha detto il contrario? Questo qua, bravo, è stato condannato, bravo, per avere picchiato un ladro a casa ma sua. Bisogna chiaro? Vedere, magari no, era un è ragazzino così di 15 anni. E quello lì era, no, aveva 20 era un calciante di aveva sì, 20 un calciante e di Firenze. E beh, che c'entra, mica? Ok, che lo prende a pugni. Magari allora... questo dov'è la proporzionalità? Dov'è? Ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Dov'è? Ma cosa c'entra? Io sto dicendo che sei stato condannato. Probabilmente la legge è fatta male. Cioè, ma non è fatta punto male, perché se uno legge l'articolo 52 del codice penale, ma non facciamo ma cazzo, ma è così, ma cosa ti fa dire, ma allora spariamo tutti, cioè, ma perché non gli hai detto ieri a quello invece di fare le lacrimucce, no, con quello io, ieri nel merito penso che il padre che ha difeso la fermo figlia lì, in quel contesto, dai, vergognatevi, ha fatto la cosa vergognatevi giusta. La legge se è fatta così è fatta male, chiaro? Se uno è stato condannato a un anno e sei mesi per avere me ne sbatto chiunque l'abbia fatto, non sono né della Lega né del centro destra, me ne sbatto i coglioni. Se la legge è fatta così, è fatta male. Se uno è stato condannato a un anno e sei mesi per avere picchiato dentro casa sua una persona, la legge è fatta male. Punto. La zanzara. Chi è che mi chiama? Io aspetta un attimo, non capisco chi è che mi chiama. Aspetta. Pronto? Pronto, signor Giuseppe? Sì, chi è? Sì, salve, sono Giovanni, chiamo dall'Italia per conto di Eni, Luce e Gas. Lei conosce la nostra azienda? Sì, conosco, mi dica. La stavo contattando perché siamo in campagna promozionale. Perché non hai pagato la bolletta. Le tariffe molto vantaggiose. Sì, ma scusi, innovativi. Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora, faccio una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come, non ho capito? Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Scusi, sono al cesso in questo momento, che devo fare? Tiro lo sciacquone o continuo a cagare? Mi dica. Allora faccio una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Come, non ho capito? Si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Ha ragione. Ma che sei scemo? Ma sto al cesso, che cazzo devo fare? Allora faccio una cosa, si mette anche lei dentro e tiro lo sciacquone. Tiro lo sciacquone. Come, non ho capito? Si mette anche lei dentro, tiro lo sciacquone. Ciao a tutti amici di Radio Rock, volevo dirvi che stavo facendo prima della scomparsa del grande David Bowie un album con lui e Prince, stavamo facendo cose incredibili, hai capito? E poi la morte lo ha preso. La morte prende tutti, non fa distinzione. Io non sono mai morto, altri sì, ma io più forte della morte. Beh. Te lo ricordi? Beh, certo, come dimenticare, certo. Sono Richard Benson. Allora, in questi giorni è particolarmente scatenato il marchese Fulvio Abate. Non so se quelli che stanno ascoltando sanno chi è. Il marchese Fulvio Abate. Ma insomma, si è fissato su questa storia del fascismo. Cioè, è diventato una specie di tarlo. Cioè, ha ragione. Ha ragione. Allora, è un problema. Adesso sta scrivendo la questione dell'analfabetismo civile in Italia, che già uno l'analfabetismo civile in Italia si capisce a caso. Esatto. No, è strettamente civile. Correlata con l'insorgenza della subcultura neofascista. Esatto, Marchese. Parla come Magni. È molto semplice, uno dei paesi dove si legge bene in Europa, dove la gente si informa di meno. E poi ma ci che stupiamo c'entra? Che nascano e prolifichino questi movimenti ma non estremi. Dire cazzate. L'antifascismo è dunque un dovere di vera eleganza, di stile. Allora, ma secondo te sono più fascisti questi qua che sono entrati dentro quell'associazione oppure quelli che vogliono e sono rossi questi qua, la maggior parte sono più o meno della galassia rossa, che vogliono impedire che il Giro d'Italia parta da Israele? Sono fenomeni diversi, non c'entra niente. Sono fenomeni diversi. Ma sì, il nostro compito è quello di sapere distinguere le cose, saper distinguere. Quelli vogliono impedire una cosa. Quelli vogliono impedire una cosa. Allora, vogliono i nazisti, i neonazisti, perché così si chiamano, no? Non è che adesso bisogna chiamarli fascisti. I fascisti sono fascisti. Quelli sono neonazisti, quelli del fronte skin minchia secca. Allora, i neonazisti sono neonazisti, hanno fatto un atto intimidatorio. Gli altri fanno una vergognosa propaganda anti-israeliana, antisemita e antisionista. Però per ora non bloccano niente a nessuno, dicono semplicemente che non è che si mettono a bloccare niente a nessuno. Vabbè. Non è che si mettono a fare intimidazioni per ora. Allora, per ora. Ceccardi, la sindaca della Lega, quella di là, della Toscana, che dice: gli italiani andranno nelle riserve, negli zoo, come gli indiani d'America. Pensate. Gli italiani finiranno come gli indiani nelle riserve. Un domani verranno negli zoo a vedere gli italiani, perché sono chiaramente degli esseri protetti da tutelare. Adinolfi d'accordo su questa sostituzione etnica. Mario Adinolfi. C'è un tasso di sostituzione della cittadinanza italiana pesantissimo, perché oltretutto abbiamo anche dato nel 2016 205.000 passaporti, cioè cittadinanze italiane. Lo ius soli l'abbiamo già applicato de facto. Allora, Marco D'Avellino, erano vai. Persone che ne avevano diritto in base alla legge vigente. Marco D'Avellino, vai. Ciao, senti? Dimmi, Marco. Volevo intervenire sull'episodio degli skinheads. Secondo me, molto garbatamente, vorrei dire, senza entrare nel merito giudiziario, apologia di reato, eccetera, eccetera. Non secondo me hanno commesso un atto di prepotenza e hanno imposto la loro presenza a delle persone a cui non erano graditi. Siamo d'accordo. Atteggiamento chiaramente intimidatorio, però voglio aggiungere una cosa. Non è che hanno costretto qualcuno a fare qualcosa. Hanno passato 10 minuti, 5 minuti in un posto. Certamente non erano invitati. E dunque può darsi che abbiano commesso un reato. Bisogna sminuire sempre tutto. È un'intimidazione. Ma sono gruppi minoritari che non contano un cazzo. Se vengono dentro la radio un gruppo di vegani e ti blocca la trasmissione, ti dice. Aspetta. È un atto intimidatorio o no? Non ho capito. Un attimo solo, Marco. No, voglio dire, quei ragazzi certo che ti hanno contestato sotto la radio. No, non è un atto intimidatorio, è un atto da coglioni. Cos'era? No, da Se fossero entrati dentro la radio senza toccare, questo è quello che hanno fatto quei nazisti. Cioè, se fossero entrati dentro la radio e tu stavi là seduto e avevi 15 persone intorno che ti dicono maledetto, come la via avresti vissuta. È una violenza privata e infatti sono stati la polizia a difenderti sono stati accusati di violenza privata questi qua. E questo è quello che avverrà per questi ragazzotti dalla testa rasata. Ma che c'entra la testa rasata, Marco, da questi ragazzotti dalla testa rasata hanno commesso violenza privata. Infatti vediamo quello che deciderà un giudice naturalmente. Però Marco, di questo stiamo parlando, non di altro. Marco, no, pare all'intimidazione che hanno fatto a te i vegani. Non dire puttanate, Marco identico, identico. Su un piano più di civiltà, direi, se avessimo chiesto il parere alle persone che stavano parlando in quella sala, sono sicuro che non hanno gradito la presenza di quelle persone che si sono introdotte in maniera prepotente, ma non voglio dire che hanno fatto violazione di domicilio, eccetera, eccetera. La settimana scorsa, tu lo devi ammettere, Cruciale, perché tu fai bene, la tua trasmissione è veramente un luogo. Dai Marco, forza, vai. Allora quello che voglio dire, se uno è fascista e nazista non può invocare la libertà di parola quando è una contraddizione, ma sono il primo. Ma noi siamo talmente superiori a questa gente che si proclama fascista o nazista. Siamo talmente superiori che diamo libertà di parola anche a loro. Questa è la grande superiorità che Prezzo non capisce. Mohammed da Prato, esiste fino a un certo punto. Marco, basta. Mohammed da Prato, vai. Mohammed, senti? Dimmi. Io voglio dire una cosa a te e a Prezzo. Prima, Prezzo, lo sai perché ci incazziamo quando parlano nazisti? Perché mio nonno c'è morto nel sud Italia a far la guerra contro i nazisti, gli stessi che hanno ammazzato i nonni di Parenzo. E se voi li avete lasciati in Europa, Auschwitz, da noi in Marocco, il terzo mondo, abbiamo due luoghi di pellegrinaggio per gli ebrei. Non ho capito, Mohammed, che cosa vuoi da noi? Non ho capito, che cosa vuoi da noi? Spiegami, cosa vuoi da noi? Cosa vuoi da noi stasera? Te che appoggi quei testi di cazzo di fascisti. Ma io non appoggio nessuno, sei un coglione. Non li appoggio, imbecille. Non li appoggio, cretino. Testa di cazzo, non li appoggio. Testa di cazzo, sei te. Non mi dire che appoggio i fascisti, coglione. Sei un coglione. Ma allora che dici? Certo, li ospitiamo, li lasciamo parlare, li attacchiamo, li contestiamo, testa di cazzo. Io non appoggio nessuno. Li appoggi tu, li appoggi. Mohammed. Non t'arrabbiare, ti ho fatto arrabbiare, dai amore, non t'arrabbiare. Ascolta, ti volevo dire. Coglione. Senti, Marocchino, come ti chiami? Oh, ciusciaro del cazzo. Che? Beduino. Mohammed. Oh, Beduino di cazzo. Ma devi stare tranquillo, stai tranquillo. Io non appoggio nessuno, chiaro? Non appoggio. Che fai? Che fai? Non appoggio nessuno, cosa vuoi? Non appoggio nessuno. Non appoggio. Ma vai a fare in culo, Massimo da Brescia. Onore e gloria ai ragazzi che hanno letto quel comunicato. Spero che ci siano emulazioni in Italia. Gli italiani alzino la testa, grandi. È arrivato questo. È un coglione, un altro coglione. Perché alzo la testa perché e si alzano le manette anche. Perché onore? Non ho capito. Che cosa c'entra onore? Che fai parte anche tu di quel movimento? Ci sto pensando. Ci stai pensando? Non ho capito. Che cosa hanno fatto di positivo secondo te? Spiegami bene. Hanno augurato buon business, non hanno intimidito nessuno. Hanno letto un comunicato e hanno detto buon business e hanno ragione. In che senso? Nel senso che l'immigrazione è un gigantesco business dove si fanno tanti soldi, più che con la droga, l'ha detto anche Buzzi, se vi ricordate. Sì, no, ma su questo possiamo anche essere d'accordo, ma non, infatti dipende, io sono convinto, come? Io sono Buzzi convinto, lo faceva, sì, ma non le altre cooperative. Buzzi sicuramente è un criminale. Sì, sì, come no. Lascia stare, come c'erano un sacco di cooperative, allora, che per fortuna, Massimo, fanno un lavoro assolutamente onesto, onore, il 99%. A parte onore ai cosi, onore un cazzo, perché è una cosa un po'... onore nulla, non c'è niente di... non c'è nulla da onorare da questo punto di vista. Però sul punto non ha torto, sul punto non ha torto, vedi cosa so distinguere? Sul punto non ha torto, perché quando dice che Marcio, questi qua hanno sono semplicemente entrati in un posto, c'era un convegno pubblico, sono è entrati. È un'intimidazione il ma modo come l'hanno fatto. Ma qual è l'intimidazione? Ma dov'è l'intimidazione? Quella stessa che hanno fatto a te i vegani, ma assediando non dire che, Radio ma sono 24. Qua sotto, ma che c'entra? È la stessa cosa, ma sei uguale, scemo, ma sei impazzito. Con la piccola differenza che da te non sono entrati. Mi hanno minacciato di morte su da web. Te non, ma no, che cazzo dici? Minacciato? Avevano due cartelli dove dicevano vergogna, vergogna, vergogna. Ma cosa c'entra l'intimidazione? C'è un'intimidazione, pazzo totale. È una forma intimidatoria. Ma qual è l'intimidazione? Sono leggere, due intimidazioni. Leggere un coso. Con quelle modalità. Ma io dico roba incredibile. Nazisti vestiti di nero con la testa rasata, guarda, già protagonisti di episodi di violenza, che fanno invasione all'interno di un luogo con quelli attoniti che non si potevano muovere. Ma è una forma intimidatoria. Ridevano, è no, una attoniti. Forma intimidatoria. E allora diciamo che va bene, va così. Bene. È una forma di intimidazione. Come la chiami? Ho detto che sarà la sarà, ripeto, sarà i vegani la magistratura che hanno assediato, vabbè, Radio 24 hanno fatto la stessa cosa. Ma io infatti li ho denunciati. Con cartelli, li ho denunciati. Qualcuno li ha denunciati. Male, nessuno. Se non l'hai denunciato, ma chi ha denunciato? Libera manifestazione di pensiero. Libera manifestazione di pensiero. E se fossero entrati dentro la radio? Ma che c'entra? Ma quello è un luogo chiuso, non c'era e anche quello no, era un c'era luogo un convegno in cui pubblico era in corso un convegno. C'era un convegno se tu pubblico entri a fare un'intimidazione, vabbè, di quel tipo tanto lì, non c'è niente da fare, parlate per slogan, parlate per slogan, non c'è niente da fare, parlate per slogan, non c'è niente da fare. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. E sti cazzi! Ma ditegli a sti islamici del cazzo di andarsene a fanculo, loro e tutti sti magribini che sono qui. Vogliamo solo italiani, gente pulita. Ma porca puttana, Cruciani, cosa folklore? Come fai a dire folklore? Vai a dire a loro che sono folklore. Ti spaccano la testa con un bastone. Ti spaccano la testa con un bastone. Folklore. Imbecille. Allora, c'è da dire una cosa, Davide. Ieri ti sei... come al solito hai fatto la tua solita tirata sull'IKEA, no? Sulla donna separata con un bimbo disabile, sì, licenziata dall'IKEA. Due figli di cui uno disabile licenziata dall'IKEA perché ha saltato due turni ed è arrivata in ritardo. Sembra ai due non sia proprio così come l'hai raccontata, dicendo la solidarietà. L'ho letta così come l'ho letta dai quotidiani più importanti. Ti ho detto stai calmo perché ancora... E ho anche detto che l'IKEA, la dirigenza dell'IKEA, stava facendo le verifiche. Allora, c'era un comunicato ufficiale ieri, sì, in cui ma... la dirigenza dell'IKEA diceva verificheremo come sono andate. No, non c'è cose. Nessuna cosa da verificare. Negli ultimi questo 8 mesi, sostiene lì che appunto hai visto male, negli ultimi 8 mesi la signora Ricutti ha lavorato meno di 7 giorni al mese, negli ultimi 8 mesi, 7 giorni al mese, e per circa la metà dei giorni lavorati ha usufruito di cambi di turno e spostamenti di orario concordati con i colleghi e con la direzione del negozio. Aspetta. Benissimo, concordati. La lavoratrice si è autodeterminata per sua stessa ammissione l'orario di lavoro senza alcun preavviso nell'ultimo periodo, né comunicazione di sorta, mettendo in gravi difficoltà i servizi dell'area che coordinava e il lavoro dei colleghi. Alla luce di questa insostenibile situazione, l'azienda è giunta alla decisione di interrompere il rapporto di lavoro. Punto e basta. Questa è la versione dell'azienda. Magari non sarà così, se la vedranno i tribunali. Ma non è che le cose sono solo in magari una direzione. Questa qua a un certo punto, per motivi vari, potevano fare lettere di richiamo. Ma che le sei il capo azienda? Però come no, però chiedo, faccio il giornalista e chiedo all'azienda. Ma non lo l'azienda so. Ha fatto le 3 lettere di richiamo prima di licenziarla. Siccome ci vogliono 3 lettere di richiamo, non lo sanno, come tu infatti, ben come sappiamo. Infatti non lo sanno, guarda, non lo sanno, guarda. L'hanno fatte o no le telefonate di richiamo? Ce lo dicono. Dopodiché da Pisa, è importante dai. Saperlo. Ma non però, lo so, l'hanno fatte sicuramente. Ti pare che fanno le cose contro la legge? E dai, allora, se le hanno fatte, lei potrà impugnare questa L'IKEA cosa. Poi un'azienda, l'IKEA è un'azienda che tiene moltissimo a queste cose qua di, diciamo, di, ma, no, di... Le cazzate le fanno tutti. Certo, io non ho idea sulla base di che cosa si dice che la l'IKEA sì, ma la verità non sta solo non lo so Paolo, da che vai. Cosa Paolo. Non è da Pisa, da Pistoia. Vabbè, da Pistoia quello che è, dimmi. Paranzo! Devi stare tranquillo, però. Dimmi, devi stare tranquillo. Dai, sta tranquillo. Tutte le volte tu mi dici la solita cosa. Dimmi. Se Paolo, no, devo parlare con Parenzo. Beh, parla con Parenzo, dimmi, dai. Forse. Dimmi. No, sono depresso. Perché sei depresso? Dimmi, Parenzo? Perché? Dimmi, sì, anch'io sono depresso. Dimmi. Bene, Alessandro da Roma, dai, richiamate questo imbecille, dai, Alessandro. Ma che depresso è la Camusso, Parenzo? Sì. È la Camusso, decide lui quando uno deve essere licenziato oppure no. Camusso, non è che guarda il fatto in sé per sé, dice agli altri come applicare la legge. Sì. Ma che senso? Dice agli altri, avete fatto la lettera di richiamo? Ho ricordato, non ho detto l'avete fatta, ho ricordato che cosa che dovrebbe sapere chiunque, che la procedura per licenziare una persona sono tre lettere di richiamo. Ma lo sappiamo, lo sappiamo già. Ma tutti lo sanno, forse quelli che ascoltano, non l'abbiamo detto, non lo so. Lui vuole dar consigli agli avvocati di IKEA, come se grande avvocato, no, per semmai agli vabbè. Avvocati della CGIL, non a quelli. Ragazzi, la verità non sta solo a me colpisce il fatto che una donna con due figli, a me colpisce il fatto che mi ha colpito il fatto, ma come a molti ha colpito il fatto che una donna divorziata con due figli, divorziata di cui uno divorziata di succede disabile, a molte persone, meno sai. Fortunata di noi, meno probabile, ricca di noi, che fa un lavoro meno bello del nostro, si trova. Ho detto semplicemente che ragazzi, il diritto del lavoro, ma non è che uno può fare il cazzo che vuole, non è che uno può fare il cazzo che vuole solo perché è divorziato con due figli e uno di cui uno disabile. Nessuno dice il contrario. Allora basta, nessuno sostiene il contrario. Ho detto che da come è uscita la notizia, ieri sei partito con la solidarietà, oggi l'azienda dice un'altra cosa, appunto. Rimane la mia solidarietà a questa persona che evidentemente ha vissuto una fase di difficoltà. Sì, Alessandro, evidentemente, dimmi, dimmi, perché mia, non è una lavoratrice forse che non aveva voglia di lavorare. Vai, non era una fannullona. Non lo so, non la conosco. Come fai a dire? Mi pare che non sia una fannullona, mi pare che sia una donna divorziata con due figli di cui uno disabile, di cui uno disabile, che forse ha sbagliato qualcosa nel suo posto di lavoro ed è stata licenziata. Se volete comunque dire che è bene così, ma chi ha detto che va bene così? Allora, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Dimmi, Alessandro, stiamo discutendo del fatto, non tu sei partito ieri con la solidarietà, io ho detto guarda che le cose non sono, leggendo la notizia ho detto mi sembra incredibile e sto dalla parte sua. Oggi non ascolti, oggi non ascolti, dai Alessandro, vai. E allora avete ragione, e viva l'IKEA. Basta, non è argomento. Ma io ho detto viva l'IKEA. Oggi non ascolti. Ho detto viva l'IKEA io oggi. Ma hai detto viva l'IKEA? Ma io non ho detto viva l'IKEA. Devi mantenere la tua posizione. Io ho detto viva l'IKEA. Ho detto guarda che forse le cose sono un po' diverse dalla tua solidarietà senza confini di ieri. Il dato è, ma senza confini, il dato è che questa persona in difficoltà per una serie di ragioni è stata licenziata. Si può capire meglio perché? Da Leguley? Chiedere di capire meglio perché? Vai Alessandro, dimmi. O no? Ha fatto il comizio. Vabbè. Sai, Luciano, ci stanno due tipi di prostituzione. Sì. Scusa se parto così. Ci sta la prostituzione che fa la mignotta per strada, in cui tu dai soldi e lei in cambio ti dà il corpo. Sì. Poi c'è un altro tipo di prostituzione, una prostituzione mentale. Sì. Quando tu vai sempre in un senso, vai sempre in quella direzione e dopo ti fanno gli bini di trasmissione, ti danno la trasmissioncina, stai in quel circo di radical chic da cui non esci perché ti conviene, ma tipo chi ti come rivolgi? Formigli, non ho capito. Rondolino cazzo fino, tutti quei coglioni là, capito? Giannini, tutti quei coglioni. Vabbè, a chi mi riferisco? Dire, dai. Non è che puoi generalizzare mettendo e tutti in mezzo. Dai, dai. A chi mi riferisco secondo te, Cruciani? Non lo so, a Parenzo, non ho capito, a Parenzo. Ma a Parenzo che sì, io sapevo una cosa. Ma non è che uno dice così senza motivo, perché vuole attaccare a Parenzo. Perché i fatti dicono che da 5 anni, 7 anni è stata sta trasmissione, va sempre in quella direzione, quale sempre direzione? A favore di quello, sempre in quella direzione. Ma da favore di chi? Ma dipende dalle cose, dai fatti. A parte sempre contro il 5 Stelle, quindi vai a favore. Ma che me ne frega a me se i 5 Stelle dicono una cosa intelligente, do il mio parere e dicono che dicono una cosa intelligente. E accade raramente, secondo me, infatti. Accade molto raramente. Dopo la mi pare che faccia tremendamente schifo, ma non lo dico solo io, però. 21 posizioni, capito? Dice, fermo, no, lì, fa... fermo lì. Guarda, che roba fa. Ciao, ne sa, ciao, ciao. Ma... La Zanzara. Riprende oggi, caro David, la nostra favolosa rubrica sui, come dire, sui conoscitori dell'impossibile, sulle menti più illuminate del nostro paese. In questo caso intervistiamo il professor Franco Candy, ufologo rapito dagli UFO. Oh mamma. Ufologo rapito dagli UFO e soprattutto sostenitore della Terra piatta. Ci sono anche quelli che sostengono che la Terra non è rotonda, certo, ma è piatta. Come quell'imbecille di Pistoia che ha chiamato prima, vedete? Franco Candy. Pronto? Franco? Chi parla? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Radio 24 di dove, scusa? Radio 24, sono Cruciani, buonasera. Buonasera. Io sono curioso di capire perché lei crede che la Terra sia piatta, e questo è curioso. Perché semplicemente ho cominciato a pensare con la mia testa e guardare con i miei occhi. Cioè ho smesso di guardare quello che la NASA mi propone, perché vedo che ogni volta che produce un film è una bugia, perché non sono nello spazio ma sono in una piscina e si vedono le bollicine. E poi il fatto stesso che non possono essere lassù a 460 chilometri d'altezza è perché a quella, a quell'altezza ci sono circa 2000 gradi di temperatura. Certo. Scusi, che c'entra la NASA? Cioè, perché lei dice che le immagini che abbiamo ci sono fornite dalla NASA, giusto? Dalla NASA, sia un complotto. Solo praticamente dalla NASA. E dunque loro che interesse hanno a farci, a raccontarci che la Terra è tonda? Posso alterare tutto? No. Dimmi, dica. Fanno parte di quello che è quel complotto organizzato da tutti i potenti del mondo per farci credere che oltre al circolo polare del sud, antartico, non ci sia nient'altro che un polo sud, e invece è un cerchio che avvolge tutta quanta la Terra piatta. Al di là di quel cerchio, al di là di quel bordo, ci sono altri continenti. Di là è provato, perché alcune persone ci sono già state di là da quel cerchio, uno si chiama Barrington e l'altro si chiama Birch, sono stati là e hanno visto che là ci sono dei continenti che sono molto, ma molto più sviluppati di noi, praticamente sono quelli che si chiamerebbero extraterrestri, che invece sarebbero extrabordo. E dunque non ho capito, se uno dovesse scoprire che ci sono dei continenti più sviluppati dei nostri... Salta tutto. Cioè in pratica salta tutta la bugia che è stata fatta da 500 anni a questa parte, perché sono 500 anni esatti che ci hanno raccontato la bugia della Terra tonda, della Terra sferica. Non a, chi a chi interessa questa cosa? Soprattutto agli americani, agli americani, non so, 500 anni fa. Soprattutto a chi detiene dei poteri per quello che riguarda petrolio e altre cose, energie che al di là di questo bordo sono energie che non li usano più già da millenni. No, piccolo dettaglio, 500 anni fa però la NASA ancora non c'era. Io concordo su tutto, sono Parenzo. Sì, sono... però la Chiesa e tutto quanto la Chiesa, ha portato avanti tutto fino a oggi. Certo. No, ma io figuriamoci, che c'è proprio la cosa che è un Truman Show, è come vivere nel Truman Show praticamente. Qualche cosa di simile, anche perché nei film ti raccontano la verità. Fino a un certo punto succede, cioè? Sì, è come il Truman Show. Ti raccontano la verità della realtà di quella, di quello che è la nostra terra, però ti stanno dicendo la verità su tutto, però la gente non vede questa verità e soprattutto non riesce a vedere che quando mandano su un pallone sonda con le telecamere, con la lente che non è fisheye come quella degli altri palloni della NASA, l'orizzonte è perfettamente dritto. Pazzesco. Cioè, invece quando va su un pallone sonda della NASA, che non so perché abbiano bisogno di mandare su dei palloni sonda, visto che dicono di avere tanti satelliti che svolazzano circa 25.000 sopra le nostre teste, però non li ha ancora visti nessuno, se non nei cartoni animati che loro stessi producono. La Terra piatta, dal punto di vista tecnico, come si fa a vedere che la Terra è piatta? Io ho visto sempre tutte le immagini, la Terra tonda. È la NASA che le ha mandate quelle. Tutto taroccato, amico mio. Se uno se uno crede a quello che gli dice la NASA, è tutto tondo e tutto sferico. Ma non è solo però la NASA. Invece, se uno fa dei ragionamenti con la propria testa, certo, e guarda all'orizzonte, guarda e vede che la Terra è tonda, si dice. Però quindi ci deve essere una curvatura. Allora, come mai che io, quando ho fatto i miei video, ho visto delle cose che invece non erano sotto la curvatura, ma si vedevano perfettamente? Io al mare ho fatto delle inquadrature di piattaforme che erano al largo 25-30 km, che dovrebbero sparire sotto l'orizzonte di 50-60 metri. Ma no, non è vero, cioè non è che la Terra... Io le ho fotografate, le ho filmate. Però scusi un attimo, lei crede negli UFO? Io ho avuto a che fare con loro. Sì, lei è stato rapito, però no? Gli UFO, se la Terra è piatta, non vuol dire che si escludono gli UFO, perché gli UFO ci sono, perché arrivano dall'extrabordo. Lei è stato uno di quelli rapiti, no? Se non sbaglio, uno di quelli rapiti. Quanti rapimenti alieni ha subito lei? In totale tre. Tre rapimenti. Che cosa è successo? Che io ricordo sono tre. Che cosa è successo durante questi rapimenti alieni e come sono accaduti, se lei ce lo può ricordare? Mi hanno fatto degli esperimenti. Come erano sti alieni fisicamente? Assomigliavano fisicamente a chi? Io ho visto quelli che sono chiamati grigi. Grigi, cioè? Quelli che vengono chiamati grigi, cioè non troppo alti, abbastanza piccolini. L'ultima volta che lei ha subito un rapimento alieno, quando è stato? Eccoci, questo sia importante. È stato due anni fa. Che cosa è successo? Cioè, lei ha avuto non lo so assolutamente, perché io stavo filmando tutto con la mia webcam, alcune cose che stavo facendo. A un certo punto sparisco, poi dopo ricompaio. È vero, tutti insanguinato in faccia e delle cose. Ecco, ma che interesse hanno gli alieni a rapire il signor Candy, il signor Franco Candy? Cioè, che interesse hanno come altri? Degli esperimenti. Evidentemente, quando loro prendono qualcuno è perché questo qualcuno ha un DNA interessante per loro, ricco di elementi per farci degli esperimenti. Sicuramente mai hanno fatto degli esperimenti, perché io è da allora che non mi sono più ammalato da virus. Io i virus non li prendo più, quindi raffreddori, influenze, tutte. Cioè, da quando lei è stato rapito per la prima volta non prende più malattie? Dall'84 in poi. Cioè, malattie di nessun tipo, cioè influenza, raffreddore, zero? Tutte quelle da virus. Tutte quelle da virus. Esatto. Ha mai preso lei psicofarmaci in vita sua, no? No. No, però voglio capire una cosa, le basi aliene, cioè che obiettivi hanno secondo lei questi UFO, cioè questi extraterrestri? Ma io non lo so che obiettivi hanno. Non lo so, si sarà fatto un'idea, lei è considerato anche un ufologo. Ma avrò anche fatto un'idea, loro vengono qui, fanno degli esperimenti, poi dopo non so, al soldo di chi vengono, potrebbero essere i nostri governanti, quelli del nostro, chiamiamolo, pianeta. A proposito, voglio farvi notare che... Sì, faccia notare. Sfera è un luogo sferico, pianeta è un luogo piano. Perché la Terra la chiamano sempre pianeta? Vabbè, ho capito, questo però è una questione scusi professore, è una questione semplicemente di linguaggio. Perché mi chiami professore? Cosa sta dicendo? No, lui dice la sfera. Non fatemi arrabbiare, ho sentito tante cose in silenzio, tranquillo, ho detto che aveva ragione, ma adesso su questa cosa della parola aspetta. Non fatemi arrabbiare. No, scusi professore, però voglio capire una cosa. Ma perché professore? No, la questione la questione del... Adesso scusami, chiedi scusa, adesso lo richiamiamo. No, non ce l'ho fatta più. Ma tu devi più. Chiedergli scusa. No, provate, ma non a richiamarlo. Scusa, niente. Ma aspetta, ho provato fermo. Ad assecondarlo come si fa. Provate a richiamarlo, aspetta. Ho provato. Vai. Pronto. No, devo chiederle scusa, sono Parenzo, salve. Volevo solo chiedere scusa, le passo Cruciani. Io vado via, le chiedo scusa e vado via, la lascio con Cruciani. Le chiedo scusa. No, guarda, io non ho più voglia di parlarne, perché se devo essere preso ma io le chiedo scusa, le lascio con Cruciani. Per il culo qualcun altro. Sì, no, ma lei ha ragione, vado via. Chiedo scusa e lascio Cruciani. Giuseppe, vado. Vaffanculo! Non devo chiedere scusa a nessuno, imbecille! Scusa, ma di che cosa devo chiedere? Lui deve chiedere. La terra piatta? Il cazzo? Il cos'è che ha detto il satè? Ma vaffanculo! Si arrabbia pure! Ma ha sospeso i farmaci per quel da 500 anni? Ma minchione! Telefono, chiedimi scusa! Chiesto scusa e chiude pure il telefono! Vaffanculo! Ha richiamato, intanto gli mando un messaggio, gli chiedo io scusa, speriamo che risponda. Ma cosa c'è da chiedere? Speriamo scusa. Che risponda. L'ho assecondato per 6 minuti sentendo cose, l'orizzonte. Aspetta. Gli sto mandando un messaggio. Pronto? Ok, sono qui. Eccoci qua. Lei pensa che noi viviamo in un mondo manipolato? È assolutamente manipolato. Da chi? Da chiunque manovra i media, soprattutto televisioni, i giornali, le notiziari varie, è tutto manipolato. E chi sono i burattini, diciamo? So, Israele, per esempio, che ne so, gli israeliani? Anche, assolutamente, perché se nota tutte le più potenti banche, è tutta roba che arriva da quella zona lì, Rothschild, Rockefeller. E gli Anunnaki, che c'entrano gli Anunnaki? Diciamo che gli Anunnaki sono quelli che ci hanno modificato geneticamente, sì, per poter fare in modo di che noi potessimo lavorare per loro. Loro sono venuti con lo scopo di trovare oro. E noi siamo stati costruiti a loro immagine e somiglianza, sì. Loro hanno un'intelligenza sicuramente superiore. No, la cosa che voglio capire da lei, perché è anche questa cosa sui vaccini, lei è profondamente convinto che siamo in presenza di un grande complotto anche sui vaccini, o no? Quasi sicuramente, c'è lo sterminio in atto. Cioè? Cioè, le scie chimiche ci avvelenano. Sì, poi? Mettono dei metalli pesanti nel cibo che mangiamo. Sì. Soprattutto lo mettono anche nei medicinali che prendiamo, perché ad esempio ci sono moltissimi chemioterapici, sì, che come conservanti hanno il mercurio, che è altamente cancerogeno. Lei non crede nella chemioterapia? No, assolutamente. So che esistono delle diete particolari, sì, per evitare il cancro. Sì. E sicuramente ci sono anche dei medicinali particolari che non sono quelli delle multinazionali, che sono quelli che ci tengono in pugno. Cioè, praticamente lei sta dicendo tra scie chimiche, chemioterapia e vaccini. E anche il cibo, siamo dominati dalle multinazionali. Siamo ancora con questo, scusa? Siamo avvelenati da loro. Siamo ancora con questo? Siamo ancora, stare zitto, però. Siamo ancora col professore? Beh, ma sì, ma non ho capito, no, sta dicendo. Fagli esprimere la sua opinione su queste la cose. La sua opinione? Ma sono stato buono per 20 minuti. Ho provato anche a dargli ragione per allora, vedere ripeto, se la terapia... Allora, ripeto, andate a prendere per il culo vostra mamma. No, ma che c'entra? Ma come si permette? Mamma mia, ragazzi, la terra piatta, fermi lì. La zanzara. Amarezzo, non ci hai rotto il cazzo, ma una bella botta gli hai data, eh? Ovvio, è così. Il fascismo sta imperando. Informati, Gremlis. Non te ne ricordi Gremlis? Quegli animaletti là che era un cagnolino che poi con l'acqua li ha trasformati in mostriciattoli. Ma Cruciani, sei miserabile vero? Meno male c'è Parenzo che va a dare un po' di soldi ai sarti italiani, i vecchi artigiani. Altro che prendersi un vestito prêt-à-porter fatto dai cinesi, ma vaffanculo, bravo Parenzo, bravo. Allora Andrea da Napoli, vai Andrea. Ciao Giuseppe, ciao David. Dimmi. Ciao, okay. Senti Peppe, niente, anche stavolta ti sei schierato al lato sbagliato della barricata, come sempre. Ma non ho capito, quale sarebbe il lato sbagliato in questo? A parte che non mi sono schierato con nessuno. Ma tu stai parlando ancora della vicenda skinhead? Certo, hai semplicemente sminuito quello che è un gesto chiaramente violento e provocatorio. Violento no, i gesti violenti sono altri. Al massimo si può parlare di violenza privata. Vuol dire no. Anche magari mettere in difficoltà, esatto, un gruppo di, esatto, persone che non si senta, ragazzi, proprio agio. Ragazzi, la violenza non è solo la sberla, la violenza non è solo la sberla. La violenza sono anche le minacce. Ma no, ma la violenza sono anche le minacce. Non ci sono minacce. Sono un clima di intimidazione che è violenza. Ok, benissimo. Allora, ragazzi, io sono d'accordo con tutto quello che dite, ma non mi pare che ci sia stata la stessa indignazione quando, per esempio, hanno occupato aule universitarie e non che era consentito. No, c'entra, come c'entra? No, c'entra. Lì è una protesta contro un'istituzione, invece qui è una riunione di privati che vogliono discutere era un convegno pubblico comunque. Se vogliamo un ingresso violento è diverso. Sono d'accordo con te, probabilmente si è consumato forse un reato, speriamo che vengano perseguiti tutti questi reati, di violenza privata, cioè dire sono entrati in un posto dove non dovevano stare, va benissimo. Poi se qualcuno ravvisa anche dei reati di apologia del fascismo, va benissimo anche questo. Io dico semplicemente una cosa: se questo gruppo qua va sciolto, non va sciolto per quello che è successo ieri. Le belle anime che oggi anche. Le anime belle che oggi hanno starnazzano dappertutto dicendo oddio il fascismo eccetera, perché non si sono mosse prima? Perché non hanno sciolto, non hanno chiesto lo scioglimento di questo gruppo per quello che hanno sempre scritto, hanno sempre detto? Per cui magari è stato chiesto, anche in passato abbiano fatto degli episodi del genere, in che modo può sminuire quello che hanno fatto? Ma non c'è, non è successo nulla, ragazzi miei, non è, diciamoci la verità, non è successo. Senti, se era una riunione di leghisti, entravano dei musulmani a leggere un proclama, tu avresti tritato i coglioni certo. per una settimana. No, ma sicuro. Di che stiamo parlando? Ecco, ci invadono, maledetti, ci vogliono invadere, ci invadono. Ma voi siete competenti. Strizzare l'occhio a questi fascistelli. Io non strizzo l'occhio a nessuno, e se pensi che io strizzo l'occhio a questi, sei un coglione, capito? No, chiaro? Tu sei una faccia di cazzo che strizzi. Sei un coglione, non sto strizzando l'occhio a questi, sei un coglione e una testa di cazzo. Sei un coglione e una testa di cazzo, capito? Ma che vuol dire? Che vuol dire? Ma che vuol dire sei un coglione? Tu sei, se pensi che io strizzo l'occhio, sminuire una cosa, strizzare l'occhio è un altro. Se pensi che io strizzo l'occhio a questi qua, a me non me ne frega niente, li considero dei cretini, non creda una parola di quello che dicono. Detto questo, in quell'occasione non è successo nulla. Niente. No, tu bolli cretino e coglione, anziché dire violento e fascista. Ma violento e fascisti lo dicono pure loro, non c'è bisogno che lo dico io. Sono fascisti, sono fascisti, lo dicono loro, che c'ho bisogno di dirlo appunto. Io. Lo dicono loro. E allora, problema, allora non sminuire, non dire. Ma sono folklore, fascisti, ma quella roba lì. Ma che possiamo avere paura del bene del gruppo antischinella, come si cazzo si chiama? È un conto di reprimere queste situazioni. Ma reprimere in che modo? Spiegami, in che modo reprimere? Punirli in che modo? Spiegami. In che modo? No, dimmi, punirli. È arrivato lui, è arrivato il genio del diritto. Punirli, avanti, come? Dimmi. Accertare se hanno commesso reato, sicuramente. Ma no, ma che cosa strana che dite? Accertare se hanno commesso reato, sono già in corso indagini e sono partite le prime accuse. Poi condannarli, non fare come hanno fatto. Questo lo decide il giudice. Questo lo decide il giudice. Condannarli. La politica dovrebbe prendere le distanze da questi qui. Ah, la politica invece, dovrebbe prendere le distanze. Sì, invece io ho letto alcune dichiarazioni di gente imbarazzata. Siamo arrivati a quello che devono cosiddetta... dire. Tu stai suggerendo alla Meloni e agli altri di dire qualche cosa. Io mi aspetto, ad esempio, mi aspetto che la destra di questo paese dica che è inaccettabile cosa? Quello che è avvenuto. Hanno detto non anche il che non collateralismo, sta... non ma il collateralismo con questi movimenti. La stessa cosa che si diceva alla sinistra rispetto alla sinistra extraparlamentare è uguale. Vai a fare in culo, ci vai tu. Quante volte si è detto che il PC doveva prendere le distanze? Oh, Andrea, stai calmo. Lavati le orecchie oltre che i capelli, capito? Senti, imbecille, deficiente, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi tu? Ma cosa vuoi? Ma che c'entra, imbecille? Cosa vuoi? Ma vai a cacare. Ma vai a casa, va. Stefano Treviso, ma vai, imbecille. Pronto, sì, ciao. Siccome qua si sta parlando dei leghisti, volevo portare la mia testimonianza. Io sono un militante Lega Nord, sì. E ogni volta che andiamo a qualche manifestazione, Bologna, Firenze, Milano, sì. Proviamo sempre ad accoglierci i ragazzi dei centri sociali. Sì, hai fatto bene a ricordarlo. Hai fatto bene per a ricordarlo. Fortuna. Beh. Ci sono quello che Parenzo dice amici. Sempre cose legittime, manifestazioni legittime, protesta, tirano le pietre, per rompono fortuna, i coglioni. Quando ho detto che uno tira le pietre fortuna, ci sono gli mai, amici della polizia, carabinieri e guardia di finanza a difenderci, perché anche l'ultima volta a Bologna questi criminali hanno gettato i cubetti di porfido contro un pullman dove c'erano pensionati e ragazzi. Mi ricordo bene quando c'è stata la cosa al campo rom. Un cazzo quando... questi criminali qua, perché non dice un cazzo? Quando perché hanno detto non parli? Perché hanno detto che quando c'è stata la cosa al campo rom, hai difeso quel ragazzo lì che protestava contro Salvini, l'hai difeso. No, ma difeso. Un conto Salvini, è la protesta. Basta che presenti un libro che tutti quanti vanno là un a conto le è la protesta civile parla, fuori con difende. Anche manifesti e quello che ti pare. Un conto è tirare un San Pietrino. E che hanno tirato, che hanno tirato San Pietrino. Gli è arrivato dentro al pullman il San Pietrino. Eppure chi ha mai difeso questa roba? Adesso perché quattro ragazzotti entrano tutto un casino. Ma dai, chi ha mai difeso questa roba? C'è una chi ha mai difeso? Ma chi ha mai difeso uno che tira un San Pietrino? È evidente che c'è una sproporzione, no? Ma quale sproporzione c'è? Non c'è nessun fascismo. Sono quattro coglioni. Sono quattro coglioni che sono entrati in un posto, hanno fatto un programma e se ne sono andati. Punto e basta. Questo è successo. Ma chi sta sminuendo? Sto dicendo che. Ma tanto non ho sminuito. Ieri l'abbiamo chiamato e l'abbiamo fatto nero sul fascismo, sul nazismo. Fatto nero in quel caso. L'abbiamo fatto nero. Quindi non è. la gente sbiancata. È un gente, po'. Dal mio punto di vista, il fatto che loro ancora possano fare liberamente le loro riunioni dimostra semplicemente che ci saranno motivi di sicurezza che fanno propendere per tenere aperto quel movimento. C'è la democrazia anche, Antonio da Bari. No, non è la democrazia. La democrazia prevede anche il fatto che uno può parlare di cose estreme, può dire la sua anche su, in modo particolare, in modo diverso. Non mi sembra niente di strano, niente di particolare. Cioè, è un casino fatto per nulla, capito? Per parlare, ritorna pericolo del fascismo. Il Veneto, fronte sono skinhead. Aumentati episodi di questo tipo. Sono 15-16 le organizzazioni dell'estrema destra. Vabbè, ma sono monitorate. Quando superano certi limiti le sciolgono. Antonio da Bari, dai. Grazie. È giusto scriverne sui giornali e parlarne. Ma chi dice il contrario? Assolutamente. Io quindi se ne parla senza sminuirli. Sminuisce. Io posso avere la mia idea su questo? Oppure devo accodarmi, al politicamente corretto? Ma non è c'è questione, il pericolo perché fascista? Bisogna tirar non c'è fuori nessun pericolo politicamente fascista. Corretto. Ma non c'entra politicamente corretto, non c'entra niente. Non è che ogni volta per opporre un argomento si dice politicamente corretto. Se uno non dice che gli immigrati muoiono in mare è un politicamente corretto. Ma guarda che incredibile il dibattito però. Dice, ma come? Ma politicamente corretto li vuoi vivi gli immigrati? Ma Antonio, sì, ma mi sembra normale, non politicamente corretto. Ma sono parlando di altro. Parenzo, senti, no, volevo proprio dire a Parenzo, mi collegavo alla storia di prima di quella signora divorziata, licenziata. Non so cos'altro può fare una persona per avere un licenziamento. Non lo so, questa è la versione dell'azienda. Io non ho detto che hanno fatto bene a licenziarla. No, attenzione, diciamo, controllo di quello che dice Parenzo. Io non ho mai intendo. Detto questo. Non ho mai detto che hanno fatto bene a licenziarla. Ho detto semplicemente che non c'è una sola verità, Parenzo, quella della Camusso, dei sindacati e della lavoratrice. Ma c'è anche la verità dell'azienda. Ecco. Benissimo, abbiamo preso la verità dell'azienda. Dipende dalla gravità di quello che ha commesso. Io ho una mia collaboratrice che si fa l'orario di lavoro da sola e negli ultimi 7 mesi produce la metà, la mando via a calcio nel culo. Cioè e penso che lei legge... abbia gli strumenti per farlo, giustamente. Se uno è un fannullone deve essere cacciato, ma non c'è dubbio. Non mi sembra di aver mai difeso i fannulloni. Lui ogni giorno 16 non lo paga la dipendente, che poi si fa il suo orario di lavoro da solo. Il problema è che stiamo avendo un degrado culturale di senso del dovere da paura. Non lo so, questo caso è un caso Antonio per 5 minuti di ritardo quando non è assolutamente così. Questo è l'altro, caso, no? Questo di 5 minuti di ritardo, quello di Bari, no? Quello di Bari. Quello, è quello, è dell'IKEA, quello è. Sì, no, ce ne sono due diversi di casi. Ah, addirittura. Ce ne sono due diversi, uno per i 5 minuti di ritardo, uno sulla lavoratrice, appunto, che credo che siano così, no? Sono diversi casi. Sono due episodi diversi. Vabbè, comunque, sono diversi. Uno è a Genova, e l'altro è a Corsico. Sono Roberto, due ce n'è anche uno a Bari, non mi ricordo. Roberto da Forlì, vai. Dimmi. L'ultimo è a Genova. Pronto? Dimmi, Roberto, dimmi. Buonasera, io chiamavo per l'intrusione in casa dei ladri. Sì. Non mi andava bene quello che aveva detto Parenzio. Cioè, io cosa devo fare? Sono a casa da solo con 3 bambini, magari. E mi arriva un ladro. Ma attenzione, non è che Parenzo dice che non bisogna difendersi, dice che la legge esiste già, che è vero, sulla legittima difesa, che è stata fatta dal governo di centrodestra, peraltro, perfetto. E anche questo è vero, perfetto. Che hanno provato tutti in Parlamento a modificarla, poi per problemi vari non è stato possibile modificarla adesso, perfetto. E che, io aggiungo, prevede il fatto che spesso la vittima, che in questo caso non è il ladro ucciso, secondo me, ma è la persona rapinata, non il ladro ucciso, quella è la vittima, ma fa parte del lavoro, secondo me. Il ladro, la persona rapinata, la persona che ha dovuto sparare o ha dovuto menare o ha dovuto picchiare qualcuno, ha dovuto usare qualche arma, passa l'ira di Dio dal punto di vista processuale. Cioè spesso l'inferno, deve sborsare i soldi, passano anni, eccetera eccetera. Questo è il punto. E noi cosa dobbiamo fare in questo caso, allora? Amico mio, quello se che mi vuoi fare uno in casa. Se c'è la pistola e sei pronto, spari. Se vuoi meni. Se vuoi stare fermo te stuprano e te rapinano e stai fermo. Ma lui diceva che era giusto farlo, era giusto non minarlo. Questo qui non no, ma lui non dice che è giusto questo. Secondo lui non bisogna sparare tendenzialmente. Poi fondamentalmente. Intanto la legge va a vedere caso per caso, perché non è che c'è una cosa valida per tutti. Però cioè la forza, diciamo, della legge è quella che non è che c'è un caso che dici vabbè in generale si spara oppure in generale si va in galera. Non funziona così. La legge ti dice che si va a valutare il contesto nel quale quella roba è avvenuta, allora? Perché altrimenti E questo è quello aspetto che ti... per questo si apre un procedimento quando c'è un morto, le sto spiegando. La ragione che mi violenti, bambini. No, non ci siamo capiti. Mi sono spiegato male io. Mi chiedo scusa. La legge attualmente, quella sulla legittima difesa, prevede che se c'è uno che muore o anche viene ferito, un ladro, ovviamente, si apre comunque un procedimento. Io dico, perché si apre perché caso di, dopo caso, infatti è piena la storia di persone assolte perché hanno ucciso e di alcune persone condannate perché hanno fatto un uso eccessivo di legittima difesa. Ad esempio, hanno sparato quando il ladro era già fuori di casa. No, ma non è così. Spesso è successo questo. No, ti sbagli. Poi ci sono altri piccoli casi quali il giudice, e non abbiamo letto le carte, non sappiamo il perché, ha deciso di condannare lo stesso la persona che Andrea ha sparato ferendo o uccidendo. Andrea da Firenze, vai, ha fatto il commesso caso per caso. Andrea da Firenze, dentro casa uno può fare il cazzo che vuole, secondo me. Ecco, Andrea, la legge non dice esattamente questo. E per me invece questo andrebbe fatto una legge così, di una riga. Ma non è possibile, Andrea da Firenze. Non è possibile, non c'è da nessuna parte però. E invece legge facciamolo così. Noi, Andrea da Firenze. Violando qualsiasi regola di diritto, per cui io vengo a casa tua, tu mi spari, dici che io ero un ladro e arrivederci. Perché grazie. Sei venuto a casa mia? Scusa. Francamente, perché per fortuna nessuno propone perché una roba entrato simile a casa mia mentre Lega non potevi entrare. Scusa, non ho capito. Andrea da Firenze. E quindi si spara così. Ma certo, se uno entra dentro casa mia non è invitato, io per sicurezza ti sparo. Certo. Fuori da qualunque regola del diritto, no, si per spara. Per sicurezza, per non sapere né leggere né scrivere. Andrea da Firenze. Certo, è una follia, è un paradosso. Che follia, ma assolutamente è un paradosso, no? Il tuo, va bene. Se è un paradosso, va bene. Se si parla in termini seri. Andrea da Firenze, vai, dimmi. Ciao. Premesso che non sono d'accordo sul tema, sull'intervento di questi scherzi, ma due pesi e due misure ci sono, perché certo questo è un paese di borghesi radical chic, di prostitute intellettuali. Sì, perché vi racconto un esempio mio. Al tempo chi sono mi spieghi, qual è? Cosa vuol dire radical chic? Borghesi comunisti che ma non borghesi che vuol mani dire borghesi comunisti? Allora le spiego. Sono fermo lì. Sono stereotipi. Italia! Hai capito me dai? Italia! Hai capito me dai? Italia! Italia! Svegliati! Hai capito me dai? Italia, Italia, oh no, mamma mia, bocca giù da bocca miseria, oh svegliati ragazzi, Italia, sveglia, bocca puttana. Ci vediamo, oh, ciao. La zanzara. Naturalmente. Che cosa, mio nipote? Mio nipote è stato in Inghilterra a fare i master. E poi succede che all'alba ti fai la zanzara in India, che ti dà il buongiorno e ti sfragrana i coglioni. A pare con 4.000 euro di vestito ci pagavi 10 mesi Zabaeta, 400 euro al mese per 10 mesi, 4.000 euro. E invece si è comprato un vestito. Sei una vergogna. La zanzara. Ma Crucia, ma sei veramente incontinente te? Io ho 38 anni, mai andato in un bagno pubblico in vita mia, ma che cazzo te mangi? Ti insegno io come fare a cagare nella tazza senza sporcare. Butti un bel po' di carta igienica dentro la tazza prima di cagare, poi quando caghi e tiri l'acqua la tua merda va via con la carta e sei a posto e non sporchi, non serve che usi lo spazzettone. Svegliate! Ovvio! È così! Aiuto, aiuto, Cruciani. Mi ha detto la mia ragazza che ha un'amica che squirta e che è andata con un uomo, ok? Sposato, giusto? Sposato. L'uomo, quando è andato con lei e lei ha squirtato, cosa ha detto, teso? Hai rotto le acque. Hai rotto le acque. Hai capito? Allora proseguiamo in questo mondo di matti, caro David. Proseguiamo in questo mondo di matti con Corrado da Biella. Vai Corrado, vai. Ciao, mi senti? Sì, sì, ti sento, vai. Senti, dimmi. Io volevo fare solo una riflessione in merito a questa cosa degli skinhead. Sì. Allora, io credo che nessuno di noi possa immaginare che il nazismo sia nato il giorno che sono stati aperti i cancelli di Auschwitz, ma che il nazismo sia nato il giorno in cui qualcuno è entrato in una birreria di Monaco piuttosto che di Berlino leggendo un comunicato. Sì, stiamo parlando di anni, insomma, qualche anno fa, qualche anno fa in altri contesti. Nessuno ha paura che ritorni la stessa cosa. Aspetta, no, però siamo mica matti. Fammi seguire Corrado. Vorrei anche ricordare che un certo signore che si chiama Renato Curcio, che non ha sparato un colpo in vita sua, ma le sue idee hanno in qualche modo sono entrate nella testa di ragazzi e che a un certo punto hanno creato quella sofferenza, quello che è successo in questo paese per 20 anni, bravissimo, se non 30. Allora non dimentichiamoci che se fra una settimana, fra un mese, fra un anno, qualcuno frustrato dalla propria vita prende quelle idee e ritiene che il problema suo non sia quello che ha vissuto, siano gli immigrati, dici? Ma siano gli immigrati. Poi non è che possiamo lamentarci se qualche atto criminale metterà è già successo. Succede continuamente. Atti criminali contro gli immigrati. Tu mi stai dicendo che io sto sottovalutando? Non ho capito. No, dimmi. Per carità, no, assolutamente. Io credo che abbiamo tutti una grande responsabilità. Da chi fa l'operaio fino ad arrivare a chi è giornalista, fino al politico, allora, a chiunque. Questa grande responsabilità è quella di censurare questi atti di violenza. Ma quale atto di violenza? Bisogna intendersi sull'atto di violenza innanzitutto. Allora, l'atto di violenza non è semplicemente dire ti ammazzo. L'atto di violenza è anche... Ma quello lo decidono i giudici se è violento o no. Che sia un atto di violenza lo decide un giudice. Lo decide un giudice, scusami. Siete così attenti alle cose giuridiche. Ma non credo che un giudice non viva questo mondo e come non lo viviamo noi. E penso che, ragazzi, abbiamo la stessa capacità di ragionare. Ma c'è anche il giudizio dell'opinione pubblica, però. Chi lo decide? L'opinione pubblica qual è? Non dici sempre che l'opinione pubblica è contro gli immigrati, tu. Ogni giorno non dici sempre che l'opinione pubblica non vuole più gli immigrati e va ascoltata. Non andrà ascoltata anche su questo. Tu dici sempre che la maggioranza degli italiani non vuole gli immigrati. Dici, no, la maggioranza non lo senti il clima, non vedi che non li vuole? Borghesi, siete i soliti politicamente corretti. Allora, l'opinione pubblica varrà anche quando racconta. L'opinione pubblica qual è in questo caso? Non ho capito. L'opinione pubblica sono le belle inchieste che ha fatto Repubblica, altri giornali, mettendo in evidenza anche una parte dell'opinione pubblica della maggioranza. Quella lo sarà, non della maggioranza, di una parte del paese che è preoccupata per questi episodi di violenza. Ciao, Corrado, ciao. Poi se uno non è preoccupato. Allora, ragazzi, mentre Israele si incazza perché al Giro d'Italia gli organizzatori dicono che vogliono partire da West Jerusalem, cioè da Gerusalemme Ovest, e loro dicono la capitale è Gerusalemme, punto e basta, e minacciano forse, minacciano di non partire più da Israele, di ritirare i finanziamenti, eccetera, eccetera. Succede che gruppi di organizzazioni italiane vorrebbero boicottare, non so in che modo, il Giro d'Italia, per il fatto che parte proprio da Israele, perché dicono c'è l'occupazione, i palestinesi, eccetera, eccetera. Una di queste associazioni si chiama, com'è che si chiama questa associazione? Mezzaluna Rossa. Mezzaluna Rossa, la Mezzaluna Rossa. Facciamo una telefonatina, dai. Pronto? Sì? Sì, buonasera, Mezzaluna? Sì. Sì, salve, buonasera, qui Radio 24, salve. Sì, salve. Senta, io volevo capire, voi siete contro l'inizio del Giro d'Italia in Israele? Sì. E come mai? Come mai? No, come mai? Così. Perché? Sì, Allora, la Palestina è sotto occupazione israeliana. Sì, poi? Israele, scusi, non la Palestina. La Palestina è sotto occupazione di Israele. Poi andiamo. No, scusi, non ci capiamo. Cioè, c'è l'autorità territori... nazionale palestinese, la striscia di Gaza, che sono governati da alcuni criminali internazionali. Scusi, ma lei chi è? Sì. Io sono Parenzo, Radio 24. Bene, e io non voglio parlare con uno che mi parla di criminali. Beh, Hamas. No, dico solo, adesso le passo Cruciani. Hamas sono dei criminali internazionali. Guardi, non voglio parlare con lei, mi spiace. Perché? Ma non voglio parlare con lei. Ma perché, scusi? Sono nella blacklist. Perché è così? Perché non Hamas vuole parlare? Nella blacklist, mi pare. Prego? No, dico Hamas è nella blacklist, mi risulta. La lista di movimenti eversivi legati a... Però non è vero che Hamas, che quelli di Hamas sono criminali. Lei come considera Israele? Uno stato occupante? Certo. Israele è uno stato che occupa la Palestina e che tiene sotto assedio la striscia di Gaza. Che cosa stanno facendo gli israeliani e i palestinesi? Cosa stanno facendo? Questo è interessante saperlo da lei. Vuole sapere che cosa stanno facendo gli israeliani e i palestinesi? Sì, una specie di nuovo genocidio. Che stanno facendo? Sono sotto occupazione, scusi, sotto occupazione. Cioè, lo stato Israele è uno stato criminale, secondo lei? Certo, Israele è uno stato criminale perché tiene in una situazione di apartheid il territorio palestinese. Apartheid... Ma ci sono anche dei deputati palestinesi alla Knesset. Ma cosa dice? Quando lei parla però di apartheid, parla di una roba che ricorda il Sudafrica, l'apartheid. Certo, difatti ricorda il Sudafrica. Il Sudafrica era Mandela, Nelson Mandela disse il Sudafrica non sarà mai libero fino a quando non sarà libera la Palestina. Infatti ha detto questa è una frase di Nelson Mandela. Infatti disse una cazzata, anche Mandela diceva una cazzata. Non disse assolutamente una cazzata. Perché ve la pigliate col Giro d'Italia? Che ve frega del Giro d'Italia? Appunto. Perché lei non sa perché Israele vuole il Giro d'Italia che parte da Israele? Gli darà dei soldi. Lo vuole perché Israele sta cercando di rendere di dare un'immagine di un paese democratico, di un paese aperto a tutto. Ma non c'è bisogno, non c'è bisogno del Giro d'Italia. Lei lo sa che in Palestina ci sono tantissimi posti di blocco israeliani? Ma che qual è la Palestina? Ma scusi, c'è Israele, qual è la Palestina? Gaza è la Palestina. Cioè, lei continua a dire la Palestina. Perché voi non volete che il Giro d'Italia parte da Israele? Che ve frega? Da Gerusalemme, da Gerusalemme, dalla capitale dello Stato di Israele, Gerusalemme. Lei ha sentito che Israele ha detto che non vuole che si dica che il Giro d'Italia parte da Gerusalemme Ovest? Perché c'è solo Gerusalemme, non c'è Est-Ovest, Gerusalemme è una. Allora lei lo sa che Gerusalemme non è né israeliana né palestinese. Ma cosa dice la capitale dello Stato di Israele, Gerusalemme? Volete boicottare il Giro d'Italia, che volete fare? Certo, noi vogliamo semplicemente, abbiamo detto Vabbè, quelli se ne fottono. L'avete detto, sti cazzi. Il Giro d'Italia parte da Gerusalemme, che è una. Sti cazzi, l'avete detto, sti cazzi. Il Giro d'Italia parte da Gerusalemme Ovest. Così è stato detto. Non esiste Gerusalemme Ovest. Signora, però posso dire una cosa, ma chi se ne frega da dove parte il Giro d'Italia? Ma chi se ne frega di quello che dice lei? Insomma, la saluto, arrivederci. E dove va? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. La Zanzara. Ovvio. Scusami, io non posso stare a camera, ma come faccio a stare a camera? Vedo quel sindacazzo di Matteo Ricci che spara minchiate quando dovrebbe guardarsi in casa sua, sto idiota, che ha avuto due negri che hanno stuprato i due turisti polacchi e la transperuviana. Ha avuto tre complici che hanno partecipato alla strage in Francia col camion di Amri. E quell'altro idiota di Pietro, sempre insieme ad Agora ospiti, che non ha mai spiegato i 150 milioni a scatto di scarpe che gli era dati, la Mercedes 5000 da chi gli è stata regalata e perché ha cessato e ho ridato la toga. E allora, due coglioni, ma chi credete incantare? Mandatevele a fare in culo tutti e due, uno per uno, due idioti. David, questo è un nuovo format. No, questo è un nuovo format. Si chiama, a me fa impazzire questa cosa, il nuovo format di Mauro davanti alla televisione. Cioè Mauro da Mantova, ma tutto il giorno passa davanti alla televisione. Accende la televisione la mattina, mette soprattutto la 7. Fatti una, no, fatti lì una parlava, domanda. No, fatti lì parlava una domanda, di Agorà, sì, se non sbaglio. Mette Agorà, però spesso guarda la 7. Dunque fatti una domanda e datti una risposta. Beh, ottimo, signor perché, Mauro da Mantova, perché la 7 fa informazione. Sì, certo, lui... assolutamente. Allora mette lì e appena vede certi personaggi impazzisce. Adesso ha parlato di Matteo Ricci, è fissato, sì, sì, con Matteo Ricci, sindaco del PD di Pesaro, attribuendogli peraltro gli stupratori di Rimini, che però non erano, no, erano di Rimini, non di Pesaro, che cazzo c'entra? Poi anche i terroristi, nulla, non so. Sbaglia, e poi, le città, cioè, le è fantastico, cose, sì, è un nuovo format. Mauro di fronte alla televisione, spettacolare, cioè, non, accende la televisione e sbrocca, cioè deve essere il nostro e critico, reinterpreta la realtà, lui, il nostro reinterpreta, critico televisivo, senti. Come faccio io a sentire, ma come faccio a sentire sti coglioni del Partito Democratico? Parrini dice, quando siamo arrivati io avevamo, noi avevamo il 43% di disoccupazione. Ma vai a fare in culo. Ma la disoccupazione mica l'aveva fatta il PDL, la disoccupazione l'aveva fatta il 2011, Monti, brutto idiota. Quando siete arrivati voi nel 2013, era già due anni che era già stata massacrata l'Italia. L'Italia col PDL non aveva il 43% di disoccupazione, avrà avuto il 12 o il 20, non di più. E allora che cazzo spari? Abbiamo avuto più di un milione di posti di lavoro in più, sì. Avete conteggiato però negli assunti anche quelli che hanno lavorato un giorno. Quindi vai a fare in culo te, Renzi, Ricci e tutti quei merdoni del PD che raccontano solo balle. Vaffanculo. È come Napalm, è come Napalm, quello, sì, sì, quello, sì, quello, sì, di Crozza. Sta davanti alla televisione, fa tutto pezzi, sì, di merda, schifosi, infami, la disoccupazione, giorno, infame, lurido. Non ti ricordi quello? Poi confonde. Ma quando è che date, lavora? Poi dice che lavora, no, ma non lavora, lavora, non lavora, tutto non lavora, eh? Non lavora. Ah, beh, per forza. No, perché mentalmente non può lavorare. Non, allora, non Daniele da Trento, vai, Daniele. Daniele, Cusani, mi senti? Sì, mi ti senti? Sento, Daniele, dimmi, dimmi. Grandi. Niente, io volevo parlarvi della mia vendetta non violenta che sto operando contro quelli di estrema destra, geolocalizzata molto a Bolzano e a Trento e su tutto l'Alto Adige. E com'è questa, bene, vendetta? Come si realizza? Non violenta, ha detto, non violenta. Non violenta, esatto. Praticamente, beh, mi sto trombando le mogli di tutti questi nazisti che, ma mentre sono, scusa, a caccia il fine settimana, o sono imprenditori anche che lavorano. Anche questa è una strada? Anche, esatto, questa è una strada. No, spiegami, spiegami un paio bene d'anni. Sì, spiegami bene, però Daniele. È iniziato per gioco, nel senso, mentre cercavo tramite queste applicazioni di incontri delle compagne. Ma tu perché per lo strada fai? Non ho capito. Hai qualche motivo per farlo? Cosa sei? Ah, beh, chi, guarda, sei? Allora, inizialmente, beh, io sono un misto tra papà nero americano e mamma bianca italiana. Cioè sei meticcio, diciamo. Sei lo meticcio. Possiamo ribattezzare, esatto, il partigiano della gnocca, ottimo, mi pare perfetto. Bravissimo, bravissimo. Allora non, bravo, ho capito, sì, che fai per vendicarti di questi nazisti? Poi soprattutto, quanti nazisti ci stanno lì a Trento, razzisti? Come fai a identificarli? Beh, no, no, ascolta, allora qua a Bolzano ce ne sono tanti che, anche, sì, se non lo dichiarano apertamente, lo sono proprio perché... Vabbè, allora tu che fai? Prima di tutto neanche italiana. Niente, io praticamente inizialmente ho iniziato che ho conosciuto una di queste. Una di queste chi? Moglie di chi? Una moglie di un imprenditore altotesino di Bolzano, dove praticamente in primi appuntamenti che ci siamo conosciuti mi raccontava quasi con distacco, perché alla fine, ottimo, quando ti conoscono poi stranamente cade un po' quel razzismo, bravo, che c'è all'inizio. Quando non ti conoscono sei nero e basta, poi quando ti conoscono invece pensano che sei bianco, tra virgolette, ti parlano dei neri come se tu non ci fossi, quindi senti le loro espressioni. Bravissimo, bravissimo, alcune ottima strategia. Alcune di queste ancora quando mi parlano, ma guarda tutti questi stranieri, tutti questi immigrati. Ma quando il nazistello torna arriva a casa? A me interessa quello, quando il nazistello torna a casa, dice, ah sai amore, oggi ne ho sprangati due o tre, lei dice, beh sai anch'io oggi ho avuto una bella esperienza. Esatto, no, lei zitta, però, e lo scusa, sostiene, ovviamente. Daniele, io non ho capito bene, però bravo, tu come fai a sapere esattamente che queste sono le mogli, quelle, beh, che ti trombi sono le mogli di fascisti o di razzisti o di nazisti che abitano lì a Trento, dove sei tu? Ah no, sì, no, più Bolzano ti dico, più Bolzano, perché mi sposto volutamente più a nord. Cioè tu lo fai perché... proprio apposta, ti trombi le mogli? Ultimamente sì, ultimamente vuol dire da un paio d'anni. Ma che quante te ne sei fatte in tutto? Quante te ne sei fatte? Oddio, non sono tantissime, sull'elenco siamo arrivati a 6 adesso. Sì, è una battaglia civile, ma piano piano, qua? Non violenta. Ma chi sono questi qua esattamente? Non puoi fare i nomi ovviamente, però chi sono come personaggi? Oddio, alcuni potrei anche farteli perché ti dicono che tanto so che non ascoltano la Zanzara, comunque non ascoltano la radio in italiano, l'ascoltano solo in lingua tedesca. Come si chiama? Per cui... Fai il nome di una della moglie di uno, chi è la moglie di uno? Non so se è il caso di dirlo. Una si chiama Rita e il marito ha una, come posso dirti, ha un'impresa di costruzioni metalliche nelle vicinanze di Bolzano. E questo qua, fermiamoci qua. Ti dico solo che è appena tornato da una caccia grossa. Ma che c'entra la caccia in Africa? Non ho capito. Che c'entra la caccia in Africa? Però, perché ne sai che è fascista questo qua? Sono appassionati di caccia e il pensiero di andare a fare caccia grossa in Africa. Ma questo qua Africa è chiaramente fascista? È chiaramente fascista. Aspetta un secondo perché sento una musica sotto. Ma mi questo, senti meglio? Sì, sì, ecco. Ti sentivo bene. Ma questo è chiaramente fascista? Okay. No, è più che fascista, credimi, è più che fascista. Vabbè, ciao Daniele, prossima avanti puntata, tutta. Richiamaci per un'altra puntata. Avanti tutta, molto bene. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Complimenti. Allora, a proposito di sesso, caro Parenzo, alle 20:42 c'è qui un signore che può essere la salvezza di molte persone che sono collegate. Diverse persone, perché devi sapere che un terzo degli italiani soffre di eiaculazione precoce. Non so tu, io no. Anche se poi devo farti una piccola confessione, tu soffri di eiaculazione precoce? No, però è vero che un terzo degli italiani ne soffrono. Sì, no, è un problema importante anche per il bacino di utenza della Zanzara. Nessuno si è mai lamentato. Qui c'è il dottor Piero Letizia. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, professore. Allora, senta un attimo. Allora, un terzo degli italiani soffrono di questa roba qui. Problemi che possono essere di tipo: le origini possono essere mentali, paure, ansie da prestazione, eccetera, eccetera. Come si risolve nel caso in cui sia la questione sia mentale? È volgarmente detta psicologica, in realtà la problematica è un disturbo funzionale per cui il paziente è abituato ad avere questo tipo di orgasmo e quindi lo porta poi avanti per tutta la vita sessuale. Possiamo non risolverlo in tantissimi modi, ci sono tanti modi. La cosa fondamentale è prima fare una diagnosi differenziale tra funzionalità e organicità, cioè no, se il problema aspetta, è volgarmente... Andiamo per ordine, cioè se uno ha dei problemi, paura, ansia da prestazioni, come si risolvono? Ovviamente rivolgendosi a qualcuno oppure... Prendi appunti la corte, prendi appunti. La prestazione è più legata al disturbo della disfunzione erettile, l'impotenza, non l'eiaculazione precoce. L'eiaculazione precoce prevede un'altra genesi e si può risolvere in tanti modi. Ci sono dei farmaci orali che ritardano l'orgasmo, sono della classe dei farmaci che appartengono alla categoria dei farmaci antidepressivi, ma non perché il paziente sia depresso, ma perché come effetto collaterale hanno un ritardo dell'orgasmo, quindi il paziente potrebbe prendere questa compressina un'ora prima e beneficiare dell'effetto collaterale. E invece ci sono delle cause fisiche invece, no? Cioè, poi ci possono essere delle cause fisiche che quasi sempre sono legate o al frenulo corto. Sì. Ecco, questo riguarda più poli invece, che unisce la punta del glande alla cute peniena. Oppure possono essere legate all'ifimosi, quindi il glande che non si scopre. Nel caso di Ramelli, del nostro Ramelli, l'ipersensibilità congenita del glande. Benissimo. E allora, quello è il caso di Mercù. Questa ad l'ipersensibilità Mercù del glande. E Longoni che hanno lo stesso problema spesso. Allora, poverini. L'ipersensibilità del glande. Cioè, lei sta dicendo in sostanza che le persone, per esempio, che sono che sono circoncise, in realtà non soffrono di eiaculazione. Cioè, benissimo. La maggior esatto. parte di queste non soffrono di eiaculazione precoce, o no? Impossibile. In realtà non è proprio così, perché poi c'è uno studio pubblicato in letteratura che dice che in realtà anche i pazienti che hanno una circoncisione soffrono di eiaculazione precoce. Perché essendo più sensibili, essendo meno sensibili, discorso, però lei, professore, come mi insegna, essendo quelli circoncisi meno sensibili, cioè avendo perso un po' di sensibilità, anche qualora soffrissero di eiaculazione precoce, il tutto è ridotto del 50%, praticamente 60%. Assolutamente ne hanno un beneficio, ma a volte potrebbe non bastare solo questo. No, certo. Non c'è lo so. Infatti, Mercù ha provato a circoncidersi, ma nonostante questo, prima di mettere una cremina anestetica. Se funziona la cremina anestetica, vuol dire che c'è un'ipersensibilità. Sì, no, infatti, il nostro regista alla corte gira sempre, se lei non lo conosce, ma insomma la corte gira sempre del suo zaino con questa cremina che lei ha. La ipersensibilità del glande può essere può derivare da che cosa? Cioè dal fatto che uno non si è mai, come si dice in gergo, scappellato, ecco. Esatto, proprio da questo che sta dicendo lei, nel senso che noi tutti maschietti nasciamo con una fimosi cosiddetta congenita, nel senso che alla nascita il glande non si scopre perché c'è la fusione della cute interna del prepuzio con il glande stesso. Poi o con le prime erezioni che abbiamo involontarie e notturne, oppure perché i nostri genitori durante il bagnetto ce lo scoprono, oppure perché qualche volta, la maggior parte delle volte, si va da un medico in età pediatrica che te lo scappuccia, come ha detto giustamente lei, scappella, e questo si risolve. Invece in alcune situazioni questo non avviene, per cui questi poveri bambini si portano avanti questo problema finché nell'adolescenza poi si evince il problema, perché diventa un antisemitismo. C'è infatti un dato inequivocabile: l'antisemitismo, una delle ragioni, deriva anche dal fatto che siccome tra gli ebrei non c'è eiaculazione precoce, non è vero, le donne, ci te lo dico io, le donne accorrendo, diciamo, per testare la capacità, assolutamente non è vero, comunque tra gli ebrei l'eiaculazione precoce è dello 0,2. È una grossa percentuale di pazienti di religione musulmana, quindi quasi tutti circoncisi, musulmani, e il 90% di questi vengono da me per eiaculazione precoce. Per cui sono musulmani, però è diverso. Perché c'entra? Dai, è uguale. Il problema è la circoncisione, non la religione. Dipende come la fai, amico mio. Allora, però io voglio capire una cosa: è vero che c'è una cosa che va di moda, cioè la circoncisione parziale? Sì, è un intervento molto bello che faccio anche io, un intervento di chirurgia estetica, plastica, perché invece di fare una circoncisione totale che prevede che il glande sia completamente scoperto, sia a riposo che in erezione, possiamo fare un intervento di circoncisione parziale, per cui lasciamo un pochino di cute che lascia comunque coprire il glande e lo lascia scoprire quando serve. Beh, ottimo, è una cosa è una specie di architetto dell'uccello, praticamente. Sono una specie di dell'uccello. Sì, okay. No, dunque lei dice anche dal punto di vista Le Corbusier, lei è una specie di Le Corbusier dell'uccello. Le Corbusier dell'uccello, sì. Vabbè, sarà sicuramente contento per il Franco Gehry dell'uccello. La circoncisione parziale esteticamente il Fuxas dell'uccello. Vabbè, abbiamo capito. Diciamola la così. Circoncisione parziale è anche esteticamente più gradevole, secondo lei? Beh, totale, bellissima. È più gradita dalle nostre partner. Sono abituate a vedere un glande circonciso. Lo dica forte e chiaro. Esattamente, no, non sono abituate a vedere un glande circonciso. Però riscuote un grande interesse perché è più pulito, più bello, aerodinamico e esteticamente. No, perché basta curare l'igiene e il pene diventa bello lo stesso, aerodinamico lo stesso, perché il glande è un'anatomia mi piace poco questo dottore. Bravo, mi piace bravo dottore, bravo. Allora, però c'è una cosa che riguarda importantissima da dire: è vero o no, da quello che ho letto da qualche parte, che alcuni si iniettano acido ialuronico nel glande? Lo fa pure lei? È stato fatto uno studio per cui ma lei lo fa? Io l'ho fatto qualche volta. I pazienti che si rivolgono da noi perché vogliono un glande più grande, perché magari hanno una simmetria molto importante tra quella che è l'asta, il volume dell'asta, il calibro dell'asta e il glande stesso. Sì. Voi sapete che l'anatomia fa sì che il glande sia sopra i corpi cavernosi e sia un pochino più grande rispetto all'asta peniena, al diametro dell'asta. In alcuni casi i pazienti si lamentano di avere un glande un pochino più piccolo e hanno fatto degli interventi, soprattutto i chirurghi plastici, questo lo fanno, iniettare acido ialuronico nel glande per aumentare il volume. E si è visto come questi pazienti riferiscono poi un beneficio per quanto riguarda la durata, nel senso che aumenta il tempo dell'orgasmo. Questo è legato sicuramente a un problema anatomico, nel senso che le terminazioni sensitive del glande e soprattutto del frenulo sono quelle che chiamiamo le zone del piacere. Quindi facendo questi interventi o di frenulo plastico, si perde sensibilità, si perde frenulo, e oppure di inglandimento del glande con l'acido ialuronico, si perde un po' di sensibilità. Ma senta, come si fa? Che c'è proprio una come che si inietta questo acido nell'uccello, nel glande? Si mette prima una crema anestetica sul glande, che è la stessa che i pazienti possono usare per la velocità. Il glande si addormenta completamente. Si addormenta sempre, quello di Mercure è sempre addormentato. Sottilissimi aghi. Che ti permettono attraverso delle siringhe di iniettare questa sostanza che è l'unico sconveniente che dopo un anno circa si riassorbe. Gli aghi, ma fa male sta roba? Assolutamente no, è un'anestesia locale. Senta, ma le ragazze di oggi, no? Cioè, le dice, come possono esserci ragazzi di 18 anni? È concepibile che gente che non si è mai scappellata? È frequentissimo, ma anche più grandi, anche trentenni. E questo spiega il motivo per cui alcune volte capita di vedere dei ragazzi, bellissimi ragazzi tra l'altro, che arrivano all'età, diciamo così, adulta, ventenni, trentenni, senza aver avuto ancora rapporti sessuali. E questo molte volte nasconde delle problematiche proprio legate alle malformazioni, che non sono sempre... Per questo i naziskin si radono la testa, sbagliano il corpo. Per questo dico i naziskin si rasano la testa, perché siccome sbagliano, confondono, diciamo così, va bene, professore, il loro comunque, organo, mi dica un attimo, lei radono quello sbagliato. Velocissimamente, secondo lei un micropene, ma veramente micropene, di quanti centimetri è? Questo è importante per Mercurio. Diciamo così, consideriamo un micropene quello che non supera in erezione i 7 centimetri. Siamo ancora alla prossima, sotto per mercoledì. Alla prossima, alla prossima. Arrivederci. Ciao ragazzi, a domani. Farenzo, vai a fanculo! Ehi, hey, Cruciani! Quanti soldi devi avere? Dalle ma quelli che sono solo! Porca la puttana, andata a fanculo! Farenzo! Ehi, hey, Cruciani! Ma che è successo? Ma scusa, ma andato a fanculo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ovvio, ovvio, ovvio, ovvio, ovvio.